24, i gialli della storia. Il 2 settembre dell'80 a Beirut, in Libano, due giornalisti italiani, Italo Toni e Graziella De Palo, spariscono in pieno giorno. Hanno un appuntamento con qualcuno che non si sa chi sia. Salgono su una macchina e poi svaniscono. Da quel giorno di loro non si saprà più nulla. Quello di Italo Toni e Graziella De Palo è un mistero mai risolto, un mistero dove si intrecciano depistaggi, omissioni, false notizie e che noi oggi a Mix 24 vogliamo raccontare. Ma partiamo da Beirut. Ne parla il giornalista Thomas Alcoverro. C'era una volta, tanto tempo fa, Beirut la gaudente. Non c'era verso di annoiarsi a Beirut, né di giorno né di notte. E infatti era il paradiso degli sceicchi arabi, dei ricchi occidentali, degli avventurieri e delle belle donne. Un'isola felice nel gran mare di divieti che opprimevano e opprimono il Medio Oriente. Ma alle favole, si sa, credono solo i bambini. E così un bel giorno anche Beirut è costretta a piegarsi al principio di realtà. È il 13 aprile del 1975. Era una giornata splendida. Ricordo che molta gente se ne stava al mare. Anch'io ero al mare. Quando arrivò una notizia terribile. Era successo che in un quartiere cristiano della città, dove si stava inaugurando una nuova chiesa maronita, avevano sparato da una macchina, uccidendo il leader falangista Gemayel e le sue guardie del corpo. E la stessa sera, nello stesso quartiere, un autobus carico di donne e bambini palestinesi del campo profughi di Tel al-Zatar venne crivellato di proiettili da un gruppo di miliziani falangisti che fecero diversi morti. Sembrò a tutti un classico regolamento di conti, che si sarebbe risolto nel giro di qualche giorno o al massimo qualche settimana. Invece la guerra dura 17 anni. E non risparmia niente e nessuno. A Beirut convivono infatti 12 diverse comunità e tutte o quasi in quegli anni entrano in conflitto, una dopo l'altra. Prima i cristiano-maroniti contro i palestinesi, poi i palestinesi contro gli sciiti, quindi gli sciiti contro i sunniti, i drusi contro i maroniti e poi contro gli sciiti. A dar man forte agli uni e agli altri, siriani e israeliani, grandi tessitori di un'interminabile guerra per bande che in poco tempo riduce la città a un cumulo di macerie. Con la guerra a Beirut fioriscono inoltre i traffici più disparati. Di armi e di droga, tanto per cominciare. Con tutto l'indotto che creano e con tutto il sottobosco che attirano. Di faccendieri, giornalisti e soprattutto spie di tutte le bandiere. E in questa città caotica e sconvolta dalla guerra civile che sbarca nell'agosto dell'80 una coppia di giornalisti italiani freelance. Lei, Graziella De Palo, ha 24 anni, lui, Italo Toni, ne ha 51. Ma chi sono e cosa sono venuti a fare nella capitale libanese? Ascoltiamo il giornalista Marcello D'Angelo, la madre di Graziella, Renata De Palo, e Mavi Serru, amica di Graziella. Italo Toni era un giornalista, diciamo, sui generis, molto particolare per quegli anni, nel senso che era un giornalista che non accettava la strada normale del giornalismo, voleva essere, come dire, attore della sua professione e comunque era un giornalista non integrabile nel sistema, cioè era un giornalista che voleva fare il suo mestiere. Graziella era una ragazza di 24 anni, piena di passioni, e anche di una grande sensibilità verso tutti quelli che erano deboli, emarginati, oppressi, tant'è vero che aveva completamente abbracciato la causa palestinese. Che cosa andassero a fare esattamente non fu detto, nel senso, io credo che, immagino che Italo volesse in qualche maniera provare a ripercorrere quello che lui aveva già fatto, appunto, quindi ritrovare uno scoop, trovare qualcosa di cui poi posso immaginare che volessero esplorare zone che non erano poi così accessibili, diciamo, alla stampa internazionale. Molte speranze e anche molti rischi. Ma i rischi per un giornalista fanno parte del mestiere. Infatti Italo e Graziella li mettono in conto e partono lo stesso. La loro prima destinazione è la capitale siriana, Damasco. L'aeroporto di Beirut era chiuso in quel periodo. Per andare a Beirut deve passare tramite Damasco in quel periodo. Nemer Ahmad, all'epoca rappresentante politico dell'OLP in Italia, è l'uomo che quel viaggio l'ha di fatto organizzato, fornendo a Italo e Graziella sia i contatti che l'aiuto logistico di cui necessitano in Libano in quanto freelance. Loro prima di andare sono venuti da me. Non è che lui ha bisogno di me per andare, perché in quel periodo centinaia di giornalisti vanno, ma come lui non ha possibilità economica e non è che lui va come inviato di un giornale. Mi ricordo da padre Ayad che lui ha trovato loro, anche ha dato un tipo di aiuto, che cosa non... E padre Ayad ha sentito di lui, che lui vuole sapere qualcosa della droga e il traffico d'armi. A Beirut in quei giorni i combattimenti sono meno intensi, ma andare a caccia di notizie non è affatto facile, perché la città resta divisa in due ed è saldamente in mano alle milizie armate. Il primo settembre i due giornalisti si presentano un po' a sorpresa all'ambasciata italiana di Beirut. Dichiarano di avere in programma per il giorno dopo una visita alle postazioni palestinesi nel sud del Libano. E aggiungono: se non torniamo entro 3 giorni, venite a cercarci. È la mattina del 2 settembre, ultimo atto. Italo e Graziella escono di buon'ora dalla hall dell'Hotel Triumph e qualcuno, in effetti, non si sa chi, passa a prenderli. Da quel momento dei due giornalisti italiani si perdono le tracce, spariscono nel nulla, inghiottiti da quel grande buco nero che è stata la guerra civile libanese. Un sequestro dunque, ma non si sa ad opera di chi e perché. E non è la prima volta nella Beirut di quegli anni, soprattutto se si è occidentali. Ascoltiamo i giornalisti Lorenzo Trombetta e Lucien Georges. Durante tutto l'arco della guerra civile in Libano, quindi dal 1975 al 1991, circa 560 sono stati gli occidentali sequestrati. Andiamo dai diplomatici, agli uomini d'affari, agli addetti militari, ai religiosi missionari, molti, molti giornalisti. La prima difficoltà quando si veniva sequestrati era proprio quella di identificare chi fossero i sequestratori. Era la cosa più importante, perché solo così si poteva avviare un'eventuale trattativa per essere liberati. Nella stampa libanese del sequestro Tony De Palo non v'è quasi traccia. A parte un articolo ritrovato sull'Orient Le Jour, nella stampa arabofona locale non si parla mai del sequestro Tony De Palo. Addirittura nelle liste ufficiali che i giornali pubblicavano periodicamente, le liste ufficiali dei sequestrati ancora non rilasciati, i due giornalisti italiani non compaiono mai. Un sequestro che passa sotto silenzio, e questa non è l'unica stranezza. Il caso Tony De Palo si trascina per anni senza che la verità venga mai a galla. Anzi, giorno per giorno la verità sembra farsi sempre più lontana, seppellita sotto un cumulo di menzogne e di depistaggi. 15 settembre 1980 è il giorno previsto per il rientro in Italia di Italo e Graziella. Purtroppo solo il 15 settembre mi sono messa in allarme, non ho visto tornare. E mi sono rivolta a Damasco, dove pensavo che avessero fatto capo. Dopo Damasco finalmente siamo arrivati a metterci in contatto con Beirut e solamente alla fine di settembre io riuscii a sapere che nell'albergo erano rimasti solo alcuni effetti personali di mia figlia e che loro erano scomparsi dal 2 settembre. 29 settembre. L'ambasciata italiana a Beirut comunica ufficialmente che i due giornalisti sono scomparsi. e il nostro ministero degli esteri decide di aprire un'inchiesta che viene affidata non all'ambasciatore Stefano D'Andrea, ma al colonnello del Sismi, Stefano Giovannone. 6 ottobre. All'ambasciata italiana di Beirut arriva la notizia che i cadaveri dei due giornalisti italiani si troverebbero all'ospedale americano di Beirut Ovest. Ma i nostri funzionari, accorsi sul posto, scopriranno che era solo una bufala. 17 ottobre. L'ambasciatore italiano a Beirut, Stefano D'Andrea, segnala alla Farnesina che il sequestro di Italo Toni e Graziella De Palo va attribuito alle milizie di Al-Fatah, l'organizzazione di Yasser Arafat. 29 ottobre. Su indicazione del colonnello Giovannone, il direttore del Sismi, Giuseppe Santovito, dichiara in un rapporto inviato al Parlamento italiano che i due giornalisti sono stati sequestrati dai falangisti cristiano-maroniti. 18 aprile 1981. La famiglia De Palo parte per Damasco, in Siria, dove riesce a farsi ricevere da Yasser Arafat, il quale si mostra commosso, con le lacrime agli occhi, e assicura che Graziella è viva e che farà tutto il possibile per facilitare un eventuale scambio. 12 giugno. Con un comunicato stampa diffuso a Beirut, la milizia falangista dichiara di non avere nulla a che fare con la sparizione dei due giornalisti italiani. La prova starebbe nel fatto che Italo e Graziella sono scomparsi a Beirut Ovest e non a Beirut Est. L'emiro Farouk Abdillama è una vera autorità nella Beirut di quegli anni e la sua chiamata in causa dei palestinesi è netta, anche se in realtà non fornisce le prove. Sono stati i palestinesi, questo è certo. Uno dei tanti gruppi palestinesi. All'epoca ce n'erano diversi, ma non ricordo più quale. D'altra parte erano i palestinesi a controllare Beirut Ovest. Ma i palestinesi non ci stanno ad accollarsi l'infamia di questo sequestro e respingono ogni addebito. I palestinesi negano qualunque responsabilità, anche se su di loro ci sono molti indizi e qualche testimonianza. E conclusioni analoghe emergono dall'inchiesta giudiziaria aperta in Italia. 14 gennaio 1982. La Procura di Roma apre finalmente un'inchiesta sulla misteriosa sparizione di Italo Toni e Graziella De Palo. 24 gennaio 1983. La famiglia De Palo torna in Libano con una delegazione di giornalisti italiani. La speranza è di poter approfittare della nuova situazione politico-militare creatasi con l'evacuazione da Beirut dei miliziani palestinesi e il ritiro dell'esercito israeliano. Ma i risultati del viaggio sono deludenti. 9 febbraio 1985. Il pubblico ministero Giancarlo Armati chiede che venga spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti di George Habash, leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Sarebbe lui il mandante del sequestro e poi dell'uccisione di Italo Toni e Graziella De Palo. Armati chiede inoltre il rinvio a giudizio del colonnello Giovannone per favoreggiamento. Febbraio 1986. L'inchiesta sulla scomparsa di Italo e Graziella si conclude senza colpevoli. George Habash viene infatti prosciolto per insufficienza di prove e prosciolti di fatto, perché deceduti, sono gli uomini del Sismi che, a più riprese, hanno ostacolato la ricerca della verità. Il caso è ufficialmente chiuso, anche se restano molti misteri. Avvicinarsi oggi, dopo tanti anni, alla verità è molto difficile. Ma proviamo ad ascoltare la testimonianza di Lia Rosa, un'attivista italiana che al tempo si occupò del caso. Ho cominciato a interessarmi di questo soggetto su richiesta di Marco Boato e poi per una questione umanitaria di onestà, perché la sparizione di una ragazza per bene che non risultava pulita sotto tutti i punti di vista e il dolore della famiglia, era giusto chiarire la situazione e cercare di sapere la verità. Questa signora si chiama Lia Rosa ed è un personaggio chiave nell'inchiesta giudiziaria sul caso Toni De Palo. Essendo infatti una sostenitrice della causa palestinese e vivendo all'epoca a Beirut, la sua testimonianza è stata giudicata molto attendibile, anche se non è affatto risolutiva. Ho saputo che loro erano ospiti di un hotel quando è arrivata una telefonata, a cui hanno risposto, hanno parlottato pochissimo fra loro, E poi hanno fatto subito le valigie e hanno detto c'è una macchina che ci viene a prendere. Un amico, che era marito della mia migliore amica allora, che è interessato, faceva parte della Fatà, e finalmente lui mi ha detto sì, la macchina che andate a prenderli era una macchina di Fatà, che andate a prenderli perché aveva raccolto delle, più che delle insegnazioni, delle accuse sul comportamento di questi due. Erano stati accusati di essere delle spie inviate da Israele e dalla destra italiana. Sono stati trattati con la massima cortesia possibile, in ogni modo correttamente, e divisi. Di fronte alle prime domande fatte un po' bruscamente e minacciose, ma senza niente di particolarmente grave, lui è crollato. È un po' difficile dargli due schiaffoni e rimandarlo a casa. Ecco, prima di tutto perché aveva girato in lungo e in largo per il Libano facendo non si sa quali supposizioni se non scoperte. Secondariamente perché è una spia. Cosa si dà? Due schiaffoni, una spia? Ah, mi dispiace, come i due schiaffoni del bambino che ha rubato la cioccolata, se lo rimanda a casa. Una spia viene condannata alla fucilazione in tutto il mondo. Mi risulta non solo che Graziella, si chiama Graziella, mi sembra, si è comportata molto bene, molto dignitosamente, l'hanno non solo rispettata ma ammirata e capito che lei non c'entrava niente in questa storia. Quindi, proprio per rispetto a lei, hanno deciso di non infierire. Ma Graziella De Palo non è mai stata liberata ed è molto probabile che abbia fatto la stessa fine di Italo Toni. Come, quando e perché non si è mai saputo. Come non si è mai saputo come sia stato possibile che siano stati scambiati per delle spie, anche se nel passato di Italo Toni c'è una piccola ombra che potrebbe giustificare l'equivoco. Sentiamo il magistrato Giancarlo Armati, l'onorevole Francesco Mazzola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dall'80 all'81. Abbiamo scavato nel passato di Italo Toni e è risultato che il Toni era al libro paga degli affari riservati dell'ex ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, perché è stato trovato un appunto in cui il Toni costituiva una fonte informativa e i palestinesi, che avevano ricevuto qualche indicazione errata, devono aver pensato che la richiesta del Toni di recarsi nel sud del Libano a visitare i campi palestinesi potesse nascondere un diverso intento, cioè un intento di spionaggio. Forse è proprio qui la chiave di tutti i misteri. Secondo l'emiro Abillama, qualcuno diede infatti ai palestinesi un'informazione errata, quella cioè secondo cui quei due italiani erano delle spie. Chi fece quella soffiata infame non si è mai saputo ed è probabile che non si saprà mai. L'impressione però è che la sorte di Italo Toni e Graziella De Palo sia stata decisa non solo a Beirut, ma anche in Italia. Va detto al riguardo che l'uomo del Sismi a Beirut, il colonnello Giovannone, qualche motivo ce l'aveva per detestare o quantomeno per non avere in simpatia Italo Toni e Graziella De Palo. Quest'ultima aveva scritto infatti diversi articoli sul traffico d'armi fra l'Italia e il Medio Oriente, in cui si puntava il dito apertamente contro di lui. Per capire il ruolo del Sismi in questa vicenda occorre in realtà fare un passo indietro e mettere a fuoco la fitta ragnatela di relazioni e interessi che legano in quegli anni l'Italia ai vari gruppi della resistenza palestinese. C'è un accordo preciso con loro, l'accordo Moro. Una sorta di patto di non belligeranza, nel senso che i palestinesi non avrebbero compiuto attentati in Italia, avrebbero supportato le richieste di forniture di petrolio da parte dell'Italia. In cambio di che cosa? In cambio di un appoggio alla causa palestinese. Può darsi che nei rapporti, questo non lo potrei escludere, che nei rapporti fra i servizi italiani, soprattutto il Sismi, e i palestinesi si sia andati anche oltre quella che era la politica di vicinanza, di comprensione, di collaborazione del governo. Mazzola parla con molta prudenza dei rapporti tra il Sismi e i palestinesi, rapporti ambigui, mai del tutto chiariti, ed è allora in questa ambiguità che va ricercata una spiegazione. Parallelamente alla vicenda dei due giornalisti ce n'è un'altra altrettanto scottante che si sviluppa proprio in quei mesi. È la vicenda dei missili di Ortona, che vede protagonisti tre militari italiani dell'estrema sinistra e un palestinese con passaporto giordano, Abu Hanseq Saleh. Ne parlano i giornalisti Giampaolo Pellizzaro e Francesco Mazzola. Saleh è un personaggio molto importante della struttura clandestina militare dell'FPLP. Dai primi anni 70 è in Italia e ha un doppio ruolo. Ufficialmente come copertura fa lo studente, di fatto è il responsabile della struttura militare clandestina dell'FPLP in Italia, quindi un personaggio molto importante sul quale intervenne a copertura di questa attività l'allora direzione del SID con una lettera formale di accreditamento per evitare appunto che lo Stato italiano entrasse in conflitto con l'organizzazione terroristica palestinese. L'arresto di Saleh provoca in effetti veementi proteste da parte del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che accusa l'Italia di aver rotto i patti, non rispettando cioè l'accordo Moro, e minaccia pesanti ritorsioni. Saleh viene condannato in primo grado a 7 anni di reclusione e il processo d'appello inizia proprio nell'estate del 1980, quando cioè Italo Toni e Graziella De Palo sbarcano a Beirut. La vicenda dei missili di Ortona e la sparizione dei giornalisti in Libano sono collegate da una serie di elementi ormai storici insuperabili. Il primo fra tutti è quello relativo all'attività che è stata posta in essere dall'allora vertice del servizio segreto militare, il SISMI, per impedire non solo all'autorità giudiziaria ma addirittura alla diplomazia di scoprire che cosa era successo sia nella vicenda dei missili sia nella vicenda della sparizione di Toni De Palo. L'insistenza infatti con cui gli uomini del SISMI alimentano ad arte la speranza che almeno Graziella De Palo sia ancora viva va di pari passo con le manovre messe in atto dal SISMI per ottenere a tutti i costi la liberazione di Abu Hanseq Saleh. Può darsi perciò che un legame esista fra le due vicende, che il sequestro, cioè dei due giornalisti italiani, sia stato un atto di ritorsione per l'arresto di Abu Hanseq Saleh, oppure che si sia tentato uno scambio fra il palestinese in carcere in Italia e Graziella De Palo finché è rimasta in vita. Ed è infine possibile che il SISMI abbia imposto il silenzio stampa sul caso Toni De Palo proprio per non pregiudicare la liberazione di Saleh, che si concretizza, guarda caso, nel giugno del 1981, dopo una lunga trattativa. C'è però il segreto di Stato sulle attività dei nostri servizi segreti legate all'accordo Moro e dunque ai rapporti con i palestinesi. Potrebbe essere trattato anche di un omicidio non voluto, di un incidente di percorso che forse fu coperto, io però, ripeto, non lo so. Posso arrivare a pensare che ci sia stato un tentativo di coprire un incidente di percorso per non aggravare la situazione e per mantenere dei contatti con i gruppi palestinesi che potevano essere utili e che erano utili in altre occasioni e che nei confronti dei quali non ci si voleva inimicare per questa vicenda. Forse è andata proprio così. Un sequestro finito male e poi coperto per ragioni di Stato. Ma è solo un'ipotesi. Dei due giornalisti non sono mai state ritrovate le spoglie, cosa che tiene aperta una ferita che è difficile rimarginare.